credo che in questi giorni si sta riproducendo esattamente la stessa situazione che si era prodotta lo scorso anno, tra gennaio e marzo, quando fui di fronte ad una posizione innanzitutto di soci privati che in sostanza chiedevano quello che leggo stanno chiedendo ancora, cioè che vi fosse una modifica dello statuto attuale di Bologna Fiera che prevede un diritto di nomina del presidente da parte dei soci pubblici, regola che non fa altro che ripristinare quella parità tra soci privati e pubblici che deriva proprio da decisioni prese tra soci pubblici e privati nel momento in cui l'ente Fiera, che era un ente pubblico, fu trasformato in società per azioni. Quindi norma a tutela di un sacrosanto diritto dei soci pubblici che invece appunto i privati volevano e vogliono, leggo ora, cambiare. La mia opinione era quella che invece questa norma fosse del tutto legittima e che in ogni caso era importante che i pubblici potessero mantenere sostanzialmente il governo della società. Come sta accadendo allora, perché vedo che il presidente Boni, che è stato chiamato a sostituirmi, tuttavia ora dovrebbe essere a sua volta sostituito e accantonato in base appunto ad un possibile nuovo accordo dei soci pubblici con i privati, magari completato appunto da modifiche dello statuto e il ritorno in maggioranza dei soci pubblici. Allora anche la mia azione vuole rimarcare infatti invece che insomma delle questioni della fiera, delle sue prospettive e anche e soprattutto del suo assetto e dei diritti del pubblico si discuta pienamente e per quello che mi riguarda ho ritenuto del tutto anomala la modalità con la quale l'anno scorso si è interrotto il mandato un anno e mezzo prima, in pratica facendo dimettere consiglieri e evitando quindi che vi fosse qualsivoglia discussione, comprese quelle presuntamente sulla mia gestione. Prontissimo a discutere della mia gestione, si doveva discutere nel consiglio di amministrazione e negli organi preposti. Così non è stato, si è fatto decadere il consiglio, non vi è stata nessuna argomentazione e quindi si è chiuso un capitolo per aprirne un altro. Vedo però che dopo un anno siamo di nuovo allo stesso punto e quindi forse vale la pena oggi discutere. Spero che la mia azione sia un contributo a questa discussione, che innanzitutto dovrebbe essere fatta, credo, nel consiglio comunale, nel consiglio regionale, insomma. Si sente un po' il capro espiatorio in quella vicenda? Ma evidentemente non andava bene un presidente che non riteneva giusto che appunto si dovesse fare questo tipo di accordo nuovo tra pubblici e privati. Io ho il massimo rispetto della presenza e dell'impegno dei privati e anche diciamo del funzionamento del mercato, tuttavia proprio il mercato ci insegna che si hanno diritti proporzionalmente all'impegno di investimento che si mette in una società. Ecco, non si può discutere invece di assetti e poltrone senza però, come è accaduto ancora in questi mesi, perché privati ho visto che non hanno ancora partecipato all'aumento di capitale senza assumere un impegno adeguato. Dico anche poi, insomma, per non parlare solo del passato, che bisognerebbe discutere anche del progetto futuro per la fiera. Il mio progetto, il mio piano era diverso da quello che poi ora si sta portando avanti, prevedeva, era così stato definito anche in intesa allora con il comune, la cosiddetta fiera nel parco, prevedeva quindi che ci fosse un progetto che congiungesse la fiera rinnovata con il grande tecnopolo lì al di là della via Stalingrado. Vedo che ora il tecnopolo finalmente ritorna ad attualità grazie alla presenza che ci sarà del centro meteorologico e dimensione internazionale, e quindi pensavo che il progetto fiera dovesse essere il progetto per dare un nuovo profilo a tutta quell'area della città, non semplicemente un progetto, diciamo così, un po' chiuso dentro i cancelli della fiera, che tra l'altro credo corre il rischio di non risolvere i vari problemi logistici che ci sono nella fiera. Quindi mi auguro che si torni a discutere anche del progetto di sviluppo della fiera. A proposito di futuro, pensa che la governance della fiera debba rimanere saldamente pubblica? Ma penso di sì, innanzitutto perché sono i pubblici che hanno realizzato il maggiore impegno. Secondo luogo, non è una questione ideologica, leggo che anche di questo si dovrebbe discutere, che il presidente della regione in primo luogo e anche il sindaco della città si augurano che vi sia questo polo regionale, quindi questa società integrata o unificata a livello regionale. Faccio presente che la fiera di Rimini è al 90% unificata ora con Vicenza, è al 90% pubblica. La fiera di Parma è all'80% pubblico, quindi francamente non capisco questo tira e molla su pubblico privato a Bologna da parte di chi contemporaneamente vuole discutere e si interroga su come fare un'unica fiera regionale che sarebbe strapubblica, diciamo così. Credo si sia dimostrato che la fiera era in buona salute, no? So che il bilancio di quest'anno sarà positivo, mi è dispiaciuto che per scelte del Consiglio di Amministrazione che si è insediato dopo di me sia venuto fuori questo bilancio che per loro scelta, insomma, diceva di una fiera in condizioni negative, anzi drammatiche. Si dimostra dal bilancio di quest'anno che non è così, così come mi è dispiaciuto molto che ci sia stata poi questa vicenda spiacevole che ha costretto anche i lavoratori della fiera ad una forte azione sindacale, perché francamente nei numeri che io vedevo e nel piano industriale che avevo pensato non vi era alcun bisogno di intervenire appunto sul taglio dell'occupazione, insomma, eccoci. Mi auguro quindi che sia mantenuta questa scelta, insomma, non far pagare ai lavoratori problemi di razionalizzazione nella fiera che semmai riguardano il costo dei servizi e della gestione interna.